Gary, Deus sol invictus. Non ho niente nella vita da perdere, da perdere, da perdere. Non ho niente nella vita da perdere, da perdere, da perdere. Non ho niente nella vita da perdere, non ho niente con te da discutere. Voglio solo nella vita vincere, voglio vincere, voglio vincere. Non ho niente nella vita da perdere, non ho niente con te da discutere. Voglio solo nella vita vincere, voglio vincere, voglio vincere. Io non ho avuto mai nessuna gratitudine. Io sono sempre stato in guerra solitudine, con le mie idee, le mie follie e attitudine. Alla diversità comando longitudine. Sono nato in terra straniera latitudine. Io non mi lego con nessuno abitudine. Sono rabbioso nel mio cuore, ho l'incudine. Martello in testa, l'amore è una cosa futile. Nella mia vita uomo io un solo giudice. Mi rendo conto che spesso sono carnefice. Non voglio essere una vittima semplice. La vita su questa terra non è docile. Nessuno crede in me uomo, io non ho amici. Io sono fratelli, il resto nemici. Vivo per la gloria, tu per cosa respiri? Beati gli ultimi perché saranno i primi. Non ho niente nella vita da perdere, non ho niente con te da discutere. Voglio solo nella vita vincere, voglio vincere, voglio vincere. Non ho niente nella vita da perdere, non ho niente con te da discutere. Voglio solo nella vita vincere, voglio vincere, voglio vincere. Nessuno crede in te, nessuno crede in te. Ho una sola vita e vaffanculo solo me. Nessuno crede in te, nessuno crede in te. Io devasto tutto corazzato come un te. Nessuno crede in te, nessuno crede in te. Ho una sola vita e vaffanculo solo me. Nessuno crede in te, nessuno crede in te. Basto tutto corazzato come un te. Yeah, io non rispetto le regole come Cesare. Per troppo tempo l'ho fatto disdicevole. Se sei un ladro qui ti fanno onorevole. Tu fai quello che devi fare mai colpevole. Tu non hai scelta, questo paese sterile. Sopravvivenza da tempo è mutabile. Qui la partita è truccata, mi devi credere. Noi siamo giocatori che devono perdere. Io non mi arrendo e so per cosa devo insistere. Io sono nato per questo, mai desistere. Una ragione per vivere deve esistere. Campioni d'Italia per te, te voglio vincere. Niente capi, non scappi, vita da pazzi. Gloriosamente pazzi, tra mille intralazzi. Sconfitto se combatti in piedi, combatti. Lacrime di sangue, lacrime dagli occhi. Non ho niente nella vita da perdere, non ho niente con te da discutere. Voglio solo nella vita vincere, voglio vincere, voglio vincere. Non ho niente nella vita da perdere, non ho niente con te da discutere. Voglio solo nella vita vincere, voglio vincere.